Pronto, pronto, pronto. Ciao Radio Antidoto. Vado in onda adesso. Spero che qualcuno sia connesso. Lo scrivo sulla chat di Radio Antidoto. In linea, in onda. Trasmettiamo. Cosa sto dicendo? Non lo so. Ciao Radio Antidoto. Sono un po' energizzato perché esco da una telefonata. Ho fatto un viaggio in Sicilia. Insomma, ci sono faccende complesse in corso. Però ci tenevo a tornare in onda. Confesso che sono stanco, confesso che ho dovuto fare un piccolo lavoro mio mentale prima di entrare in onda per non scaricarvi addosso troppo questa stanchezza. Anche perché non ha senso, nel senso che io sono veramente contento del nuovo anno. Buon 2024 a tutti, sono contento che è arrivato perché avevo bisogno di un segno, di qualcosa che switchava. In realtà le cose, come dire, vanno alla grande da parecchio tempo ormai, da qualche mese, ma qualche mese. Sì, qualche mese. Ma volevo un timbro, volevo una formalità e il 2024 è arrivato e non mi interessa molto in realtà che sia il 2024, il 2027, il 15 aprile, mi interessa ricominciare e volevo essere qui su Radio Antidoto per fare la prima trasmissione del 2024 prima possibile. L'avrei fatta anche ieri, ma ieri in Sicilia e sono atterrato molto tardi a Torino, quindi non ho avuto proprio il tempo materiale, come si suol dire. Oggi è il 2 gennaio, me la sono presa con calma. Non ho preparato nulla perché, come sapete, insomma, mi piace l'idea di tornare un po' a una radio un po' vecchia. Qualche idea ce l'ho avuta, non ho avuto il tempo di svilupparla. E quindi oggi vi metto musica a caso, cioè musica letteralmente scaricata a caso, principalmente da Bandcamp. Non so assolutamente che cosa vi faccio ascoltare, tranne un paio di pezzi che ho già pronti in canna. E boh, penso ve ne farò ascoltare parecchia. Vediamo anche cosa mi dice questa puntata, insomma, io parto e poi vediamo. Cominciamo con la musica, vi metto un bel Paolo Benvenu, perché io oggi ho ascoltato la musica in ufficio e mi sono preso questa cosa, mi sono preso uno spazio, un privilegio, insomma, mi sono preso il privilegio di commuovermi ascoltando della bella musica. E questo è un pezzo che nel ritornello dice una cosa che a me mi scalda sempre il cuore e quindi io spero che la troviate altrettanto bella, profonda, dolce e emozionante. Ci sono giorni in cui si vive un po' di più ed altri ancora che non ricorderemo mai a lavorare per consumarsi. Metti la vita nelle mie mani. Ci sono giorni si vive ancora un po' ed altri ancora che forse non vedremo mai. Spegni la luce che non si vede, noi due da soli chiudiamo il mondo fuori, ma qui non si riesce a pensare. E noi non riusciamo a sentire tutto il bene e tutto il male. Adesso guardami negli occhi come se non ci fosse niente al mondo. Thank you. riconoscersi ed altri ancora per abbandonare l'anima intera, l'anima al mondo, innamorato di te. Adesso guardami negli occhi come se non ci fosse niente. Guardami negli occhi come se non ci fosse niente. Guardami negli occhi come se non ci fosse niente. Guardami negli occhi come se non ci fosse niente. Io questa cosa la voglio dire, che io personalmente vorrei dire e vorrei sentirmi dire una frase come guardami negli occhi come se non ci fosse niente al mondo. Cioè è una cosa che a me mi fa squagliare, io ci schiatto, è una frase pazzesca, guardare un'altra persona come se non ci fosse nient'altro al mondo. Ragazzi, io più di così, che cazzo dobbiamo fare? And show a rosy on my chest, 'cause I'm a wanderer. Stavo ragionando sul fatto che mi piacerebbe condividere degli audio con delle parole d'amore, con qualcosa che parli di romanticismo, che parli di rapporti, soprattutto di tenerezza. Non ho grossi riferimenti, cioè non mi viene in mente niente, è abbastanza tabula rasa in questo momento il mio pensiero. a riguardo, oltre che sto avendo delle conversazioni parallele che mi stanno un po' impegnando. Comunque, tra le cose che ho scaricato assolutamente alla cieca, c'è questa band ungherese che si chiama Pletika. E vabbè, ho beccato questo pezzo che si chiama Depressio, che tra l'altro si scrive Depre 2SZI e O acuta, che è una cosa che ovviamente nella nostra lingua non c'è, quindi io non ho la più pallida idea di come si pronunci. Comunque, questa è la Depressio periplettica. Dovrebbe essere punk, poi chi lo sa. Cambiato il punk, vero? Mi aspettavo sti ungheresi incazzosi. Comunque, per la vostra salute mentale ho messo solo pezzi attorno ai 3 minuti, anche meno, anche meno. Che almeno se non ci piace possiamo dire di aver perso 3 minuti. E poi io ci posso comunque parlare sopra. Insomma, questa era un'ipletica con depressio, depressio, depressio, depressio, sarà un depressio, una cosa così. Belli, bravi, bravi, in effetti ci hanno messo abbastanza la depressione. E adesso passiamo a una roba rock, stoner rock, i Green Lung con Maxine, vediamo loro che sapore danno a questa serata. Remember those midsummer nights at A me più che stoner rock, questi mi sembrano gli Iron Maiden lenti, però non è un brutto ascolto, mettiamola così. Non siamo sempre soliti snobboni, dai. Comunque, vi saluto, Radio Antidoto, 2 gennaio 2024, questa è Rigonia, ho mezzo bicchiere di rum miel con me, alla salute, l'altro mezzo l'ho bevuto. Senti che tastierona cafona. Bisogna anche chiedersi questo. Se però di 3 minuti in 3 minuti diciamo che io vi rubo un 20-25 minuti della vostra vita, poi voi mi chiedete rimborso? Mi impegno. Io non lo so come ha fatto Bandcamp a chiamare questa roba stoner rock, perché di stoner non ha nulla. Proprio hard, bello, bello, onesto, senza pretese, col tastierone tamarrone, la chitarrona cafona, cioè mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto. Ringrazio Bonelli per il contributo che sto per farvi ascoltare. Mi senti? Sì, ci sono, non esisto, ma ci sono. Cogito ergo est, diceva Nietzsche. Cos'è il sentimento? In genere il sentimento è uno stato affettivo più durevole dell'emozione e meno intenso, dicevano i filosofi più non recentissimi, non gli ultimi, e molto meno intenso della passione. E col pensiero moderno che il sentimento diventa analisi del soggetto, Cartesio, l'anima su se stessa ridotta a oggetto da una forza estranea. Nel sentimento la percezione del bello è più forte comunque della riflessione. Per i cosiddetti invece sentimentalisti inglesi, il sentimento è il carattere innato del bello e del vero. Presso i romantici, invece, il sentimento è facoltà autonoma a cogliere l'infinito e anche emozione negativa, attenzione, struggimento come connivenza del male e del dolore. Quindi è qualcosa di molto sgradevole, di molto, e si sta male nel sentimento, o il sentimento che se la passa male. Se sfogliamo qualunque dizionario ispanico, è il sentimento, anche per i turisti, si traduce appunto in questi termini, diciamo, post-romantici, cioè questo struggimento, ecco, è uno struggimento, è uno star male, non c'è quindi sentimento del bello, sempre nello star male, sentimento del vero, sentimento di questo, sempre soggettivo, ma nello star male del soggetto. In Kierkegaard, nell'esistenzialismo kierkegaardiano, invece, c'è un riaggancio, si verifica, al trascendentale. Però qui l'emozione è sostituita, il sentimento non è l'emozione. Ecco. fino all'epoca nostra, diciamo, pressoché contemporanea, di Jean-Paul Sartre, nella nausea nell'être del néant, nell'essere e il nulla, cioè scacco al sentimento, scacco al sentimento in quanto forfè, vero e proprio forfè dell'esistenza umana, impenetrabilità del mondo, ecco, l'essere e nulla. Ma giustamente Bonelli, che mi ha mandato l'audio, mi dice che Carmelo va preso con ironia. Difatti, cioè, io che non sono nessuno, e con questo non sono niente, se vogliamo anzi citare Sartre, ma anzi nulla, ma non sono molto d'accordo. Cioè, questa visione del sentimento così pesante non si trasferisce alla mia esperienza di vita. Il sentimento è qualcosa che va esplorato ed esistono diverse dimensioni del sentimento, e sono abbastanza d'accordo con Kierkegaard. Poi il fatto che io sia d'accordo con Kierkegaard credo che sia la cosa più rilevante mai detta ad alta voce su una qualsiasi stazione radio. E come si fa a essere d'accordo con Kierkegaard? Cioè, ma Kierkegaard, ma perché? Perché? Nel senso, lui ha studiato, io no. O almeno non ho studiato quanto Kierkegaard. Comunque, devo aprire una parentesi sui gusti musicali di Bandcamp, perché io non li capisco più tanto. Magari io, peraltro, prendendo le tracce a caso, secondo un criterio puramente temporale, cioè di durata del brano, magari becco i peggiori dei dischi. Però questa roba qua, boh, era dentro un album of the day, cioè non l'ho pescata da... non sono andato a caso così tanto. Bonelli mi scrive che hai fatto i tarocchi sulla tomba di Kierkegaard. A questo punto saremmo interessati anche di conoscere il pescaggio. Comunque ci parlo sopra, ragazzi, perché questa canzone io non ce la faccio, scusatemi. E magari ne metto una che piace a me, un pochettino più energica dopo, che dura 5 minuti, quindi a un certo punto parlerò sopra anche questa, anche perché non capisco perché debba durare così tanto. Che appunto Bonelli mi scriveva che gli piaceva l'idea di una puntata sul sentimento. In realtà, più che sul sentimento, io vorrei dedicare una puntata alla tenerezza, che è un argomento che a me sta a cuore, nel senso che io forse faccio fatica a esprimere la tenerezza, o forse sono esagerato o goffo nell'esprimere la tenerezza, ma penso che sia la cosa più bella che si possa condividere con le persone. Ed è pure la cosa probabilmente più difficile, nel senso che la tenerezza è sempre un gioco di misure. Quando è che tenero diventa invadente, o diventa morboso, o diventa inopportuno? Ecco, nella mia testa io sarei, come dire, tentato di dire mai, ma non è così. La tenerezza è, credo sia un'arte alla fine. Forse mi viene in mente almeno una persona che è un maestro di tenerezza. E forse la tenerezza è veramente una cosa che si impara osservando l'Oriente, perché comunque credo che, se devo pensare alla persona che mi viene in mente adesso pensando alla tenerezza, questo pezzo ha un fade out lunghissimo, orribile, io mi scuso perché non so che cosa sto facendo, evidentemente, che effettivamente forse la tenerezza migliore è quella che, come dire, nasce col distacco, cioè con il non attaccamento. Io posso essere tenero con te se la mia tenerezza è un gesto gratuito, spontaneo, senza aspettative, senza ritorno. E per questo motivo probabilmente la tenerezza è così complessa per chi magari come me è abbastanza impacciato. Perché viviamo in un mondo di aspettative, cioè io faccio qualcosa e tendenzialmente prevedo che ci sia un ritorno, prevedo che accada qualcosa in cambio. E invece la tenerezza non è una moneta di scambio, anzi, forse è pericoloso utilizzare la tenerezza come moneta di scambio, perché diventa una, anche se vuoi, una forma di manipolazione. Io sono veramente dolce, disponibile e rivolto a te, affettuoso verso di te. Adesso cerco di dare questa definizione alla tenerezza così a spanne, data dal mio sentire, da come le immagini nella mia testa. La tenerezza è qualcosa che è sempre rivolto all'altro senza interesse. Cioè, io devo vedere in te la bellezza delle cose e esprimerla. La tenerezza è un movimento delicato verso l'altra persona che dice grazie per la tua bellezza e te ne sono grato. E questo è il mio ringraziamento, ed è un gesto, una parola, un atteggiamento, e ci vuole un sacco di evoluzione, secondo me, per essere teneri, perché ok, la tenerezza col proprio amante è spontanea, c'è il desiderio, però c'è anche sempre la gratitudine, no? Sono innamorato di te e è così bello stare in tua presenza e io eseguo un gesto, una carezza, uno sguardo, un sussurro, un bacio. E poi, come dire, nell'amore, nel rapporto tra amanti, la tenerezza, come dire, può anche muoversi in uno spazio tutto sommato libero, senza regole. Poi ovviamente dipende di persona in persona, ci sono persone che possono reagire male di fronte alla tenerezza perché evidentemente hanno bisogno di una distanza, di una protezione, ma tra, passatemi il termine, sconosciuti, o comunque tra non amanti, tra persone che vivono la loro vita tutti i giorni, la tenerezza è veramente, prima di tutto, un atto di fiducia, nel senso che ti devi fidare della persona a cui rivolgi il gesto di tenerezza, devi in qualche modo sapere che anche lei la saprà ricevere, e poi deve esserci anche, come dire, la fiducia nel fatto che l'altra persona saprà riceverla e capirà. E è un gioco di bilanciamenti, un gioco molto delicato. Ad alcune persone viene parecchio spontaneo, però è vero, appunto, che c'è un gioco anche dentro la tenerezza. Non lo so, sto esprimendo pensieri a briglia sciolta, quindi chi vuole contribuisca e mi corregga, mi dica stai dicendo una marea di puttanate, non lo so, e chi mi ascolta a distanza in podcast, mi scriva, davvero scrivetemi, cioè rompetemi il cazzo, se mi ascoltate. Poi venitemi a dire, ma che cazzo stai dicendo, oppure io penso che sia così, mi trovo d'accordo con questo, mi trovo meno d'accordo con questo. Cioè, Buttatemela un po' addosso la merda che dico, cioè non lasciatemi qui a farfugliare. Boh, sì, io penso che questa sia una cosa che forse devo dire da qualche tempo. Ma così anche per provocare, anche un po' per dire, vabbè, dai, proviamo a vedere se c'è una risposta, se c'è ancora un orecchio che ascolta. E a proposito di orecchio che ascolta, non so se vi ricordate un film, si chiamava The Commitments. Non so perché a casa mia piaceva moltissimo. E secondo me c'è stato un certo periodo in Italia, perché io ho vissuto gran parte della mia vita in Italia, in cui, non so, era un film che tirava un sacco, cioè lo si metteva un sacco in televisione ed era sempre gradito, e bene o male c'è una fetta, una generazione di pubblico che bene o male lo conosce, che è la storia di questa band soul scozzese, se non mi ricordo male, un po' scalcagnata, con un cantante ubriacone. Adesso, se dovessi dire la trama, non me la ricordo più. Però mentre cercavo Tenderness su YouTube per farmi un po' ispirare, tra l'altro questa cosa della tenerezza è venuta fuori così, non avevo assolutamente in mente di fare una puntata su questa cosa, è stato Paolo Benvenu, che Dio lo protegga e lo porti sempre più in alto, però mantenendolo in vita, ecco, mi raccomando. È uscito fuori Try a Little Tenderness dei Commitments, quindi penso sia una cover di Otis Redding. E va bene, io proseguirei su questa cosa qui e ve la farei ascoltare. Oh, she may be weary, and young girls they do get weary, wearing that same old shaggy dress. But when she gets weary, try a little tenderness. Fandango. You know she's waiting, just anticipating the things that she never, never, never, never possesses yet. Try a little tenderness. That's all you gotta do. This is for you. It's not just sentimental. No, no. She has her grief and her care. Soft words, they all spoke so gentle. It makes it easier, easier to bear. You won't regret it, no, no. non mi ha conquistato questa versione. Ben suonata, eh. Ah già, il cantante si faceva una delle coriste. Andava così, che un cantante si faceva una delle coriste e quindi smattavano poi a un certo punto, perché c'era questa gelosia tra coriste, che lei era la favorita. Va bene, però visto che insomma non mi ha scaldato il cuore neanche questa canzone, metto un po' di punk giapponese tratto da cartoni animati e vediamo se si riesce ad andare avanti, perché boh, dobbiamo darci una scossa, no? No, ho sbagliato. Cioè non ho sbagliato, è proprio brutta la versione. No, non sono d'accordo con me stesso in questa cosa. Voglio assolutamente trovare la versione che piace a me, che dico io, perché a me piace molto questa canzone e voglio ascoltarla bene come Dio comanda. Maki Otsuki, Run, la cerco proprio in diretta, qui, su Radio Antidoto. E perché no? Perché bisogna assolutamente vendicare quello che abbiamo appena ascoltato. E mi auguro che sia questa la versione giusta. Dovrebbe esserlo, perché lui non sa, lui il programmino di solito, se qualcosa l'ho già scaricato non me lo fa riscaricare, quindi proviamo subito. Già la traccia è più convincente a livello di spettro. Boh, la faccio partire, vediamo come va. Sì, beh, dai, la versione era più o meno questa, anche se quella che si ascolta in alcune puntate di One Piece, da cui è tratto, è una delle sigle. Non so se sapete che negli anime non c'è solo una sigla, ogni tot di puntate la cambiano, che è una delle grandi trovate, secondo me, dei cartoni animati giapponesi. Cioè, questa voglia comunque di... molto radiofonica come idea, se ci si pensa, cioè di rompere la routine, quindi di volere in qualche modo a un certo punto farti scattare la scintilla, farti ritrovare l'attenzione, tu accendi e pensi di ascoltare, che ne so, e invece, boom, parte un pezzo metal a caso. E, un pezzo metal a caso, mi fa venire in mente un'altra canzone, vediamo se la becco, ma sarà molto difficile. E, comunque il di che cosa, allora sì, tenerezza, ci siamo di nuovo qui, siamo di nuovo qui, siamo tornati su Radio Antidoto, è il 2 gennaio 2024, questa è la puntata di Rigogna inizio dell'anno, che nasce senza idee, nel senso che voleva essere proprio una puntata di Radio Antidoto, no? Quelle dove tu attacchi il microfono, poi parli, dici boh, dove cazzo, che cazzo devo dire, boh, non lo so, ma io la radio, eccetera eccetera, e non so, ha deviato sulla tenerezza perché ormai da parecchio tempo io mi sono innamorato di questa canzone di Paolo Benvenu, che ha questa frase bellissima sul ritornello: guardami negli occhi come se non ci fosse, come se non ci fosse niente al mondo. Che non so neanche se effettivamente è tenerezza, però sicuramente è grande emozione. Allora io, dopo aver scritto tenderness su YouTube, ho scritto tenerezza su Google, e naturalmente, vabbè, uno dei primi risultati è Treccani, il dizionario, il vocabolario della lingua italiana, che dice questa cosa, che il che a me, come dire, mi ha un po' colpito, però l'ho trovata sul risultato della ricerca, non nella definizione che ho aperto, che strano. E, ah no, perché la definizione del... ah, vedi, no, ho letto male, chiedo scusa. La definizione che mi ha colpito è tratta da Oxford Languages, che non so cosa sia, che definisce la tenerezza sentimento o manifestazione di fiduciosa, commossa gentilezza nei confronti dell'oggetto amato. Mi piace molto il riferimento alla fiducia, perché mi trova abbastanza... e mi trovo abbastanza d'accordo, lo dicevo anche prima, appunto credo che per essere teneri ci debba essere un concorso di fede, nel senso fede nel proprio affetto, fede nella persona che riceve l'affetto, fede nel gesto che deve funzionare, quindi ci deve essere la convinzione, ecco, la convinzione che l'azione che si sta compiendo è un'azione benefica. Dopodiché anche il concetto della gentilezza mi piace, commossa non lo so, sentimento o manifestazione, qui come dire, bara, perché sentimento io non lo so se la tenerezza, cioè si può provare un sentimento di tenerezza, per esempio, vabbè, adesso questo esempio non funziona molto bene, però ho provato tenerezza verso una squadra con cui ho giocato di recente, perché era una squadra che gioca nella mia stessa serie, però è stata ripescata da due serie successive, mi ha fatto molta tenerezza, sincera tenerezza, gli sforzi che hanno fatto per stare in campo li ho anche rispettati molto per questo, però effettivamente non sono abbastanza esperti per giocare nella serie in cui giochiamo, e quindi fanno un po' tenerezza, quindi in quel caso è un sentimento. Poi la manifestazione, come dire, è un po', come dire, gioca un po' sporco, perché prima dice un sentimento, ed è vero, e poi è una manifestazione, perché la tenerezza non è, può essere, è un'emozione, e effettivamente è una manifestazione, nel senso che è un'azione, quindi un qualcosa che si realizza nella realtà. L'oggetto amato è la roba che mi manda un po' fuori fase, nel senso che secondo me no, nel senso non per forza nell'oggetto amato, perché tu in realtà puoi avere tenerezza anche nei confronti del prossimo, perché no? Comunque, cercando tenerezza, sono anche atterrato sul sito di Einaudi, perché c'è un libro di questo Eugenio Borgna, che è uno psicologo, peraltro credo che me ne abbia parlato Lucia, secondo me sì, che è stato anche uno psichiatra, uno psicologo, insomma una persona molto colta, che ha scritto un libro che si chiama Tenerezza. Vi leggo la descrizione del libro, ve la leggo anche perché poi andando a cercare ho trovato dei commenti sul libro, quindi come dire, è come questo libro quasi quasi me lo compro, ecco, per dirlo in altri termini, nel senso che sembra un testo interessante. È stato recensito da Enzo Bianchi su sulla Stampa, quindi insomma Enzo Bianchi è l'ex capo del monastero di Bose, per chi sa, è una persona molto molto interessante. È la più facile e la più evanescente delle emozioni. La tenerezza anima il nostro modo di vivere, ci fa sentire l'altro come persona e non come cosa, aiuta a immedesimarci nella vita interiore degli altri e a farne riemergere le attese e le speranze. La tenerezza si esprime con il linguaggio delle parole e con quello del corpo: uno sguardo, un sorriso, una lacrima, una stretta di mano, una carezza, un abbraccio. Eugenio Borgna usa le parole di Rilke, che credo siano quelle sulla prima di copertina, cioè: non c'è cura dell'anima e del corpo se non accompagnata dalla tenerezza che, oggi ancora più che nel passato, è necessaria a farci incontrare gli uni con gli altri, nell'attenzione, nell'ascolto, nel silenzio e nella solidarietà. Non mi sembrano parole un granché di Rilke. Infatti dovevo leggere tutta la frase. Eugenio Borgna usa le parole di Rilke, di Mann e di Leopardi per dare corpo a un'emozione friabile e sempre sotto attacco. La tenerezza a prima vista può sembrare debole, ma in verità, ecco, questa è una cosa che mi piace molto, ma in verità è un'emozione che cammina a braccetto con la speranza e la gentilezza, e tutte insieme possono rendere l'essere umano davvero umano. Eugenio Borgna continua con questo testo sul percorso sempre più peculiare attraverso le emozioni più trascurate del momento storico. Ecco, anche questa cosa mi piace, perché secondo me la tenerezza è anche un gesto politico, e dico questo perché mi sta venendo un leggero sospetto, nel senso che ultimamente mi sono riavvicinato alla TV commerciale, perché in Sicilia, a casa dei miei suoceri, quella si guarda, la TV normale, Rai 1, Italia 1, queste cose qui. E oltre che ho notato come ormai le reti, almeno i telegiornali delle reti di Stato, ma in realtà non solo i telegiornali, assomiglino sempre di più ai telegiornali di Mediaset, compresi i servizi sui panettoni, sulle ricette, sui turismo, tutte queste stronzate qua, fatemelo dire, stronzate. Oltre a questa roba qui, ho anche ascoltato un po' di robe relative al governo, la finanziaria, il fatto che tolgono il reddito di cittadinanza, e poi appunto gira sta notizia che in qualche modo verrà ridotto il lavoro agile per i soggetti fragili, i cosiddetti soggetti fragili. E io comincio, però devo fare una ricerca, devo cominciare a puntare le antenne, perché è da diverso tempo che io cerco di capire quali cazzo siano le intenzioni di questo governo, perché a me questo governo non me la racconta giusta, e non tanto perché siano dei fasci, che per carità sono fasci, alcuni di loro dichiaratamente, altri fanno finta di non esserlo, la Meloni salta un po' di qua e un po' là. Poi dicono che l'America è una merda, poi sono con l'America, sono con Israele, poi dicono che la Russia è una merda, poi dicono che l'Ucraina è una merda, poi stanno con la Russia, poi stanno con l'Ucraina, insomma stanno cercando di fare contenti un po' tutti all'estero. Ma in Italia a me sta venendo un sospetto che ho deciso di etichettare con un termine: eugenetica. Cioè, io ho l'impressione che questo governo stia consapevolmente e sistematicamente tagliando tutte le risorse per le persone fragili davvero. Cioè, io ho l'impressione che questo sia un governo che abbia deciso di mettere in pratica un'azione che secondo me era già nella testa della destra precedente, Berlusconi compreso, e che probabilmente arriva da niente po' di meno che Licio Gelli, perché vogliamo proprio fare proprio tutto, diciamola tutta, spariamola sta puttanata per intero. Cioè, una roba tipo P2, comunque un piano, una filosofia di fondo che vuole dire: gli italiani che non sono buoni, cioè gli italiani che non consumano, gli italiani che non mi possono lavorare come cani, gli italiani che dobbiamo aiutare, gli italiani che hanno bisogno di sostegno, di protezione, gli italiani malati, infermi, disabili, incapaci, fragili, cioè insomma tutta l'umanità che ha bisogno dell'umanità per restare in piedi, Quella noi la facciamo saltare, non gli diamo più soldi, non li aiutiamo più, li mettiamo in difficoltà col lavoro, li mettiamo in difficoltà con i servizi, gli chiudiamo le opportunità di spostarsi, di cambiare vita, di accedere alle cure. Così ce ne sbarazziamo. Secondo me questa cosa qui sta succedendo. E almeno io ho cominciato a vederne delle tracce e sono convinto che, perché l'Italia deve essere fatta soltanto delle brave persone italiane, sane, di destra ovviamente, che sgobbano, pagano, tirano fuori i soldi, comprano, consumano e sti cazzi dell'ambiente. Poi magari mi sbaglio, anzi io spero di sbagliarmi, ma lo spero vivamente, anche di grosso, cioè spero di aver preso una cantonata clamorosa, perché sarebbe una cosa terribile. Detto questo, proprio perché ho questa impressione, e comunque il mondo va in quella direzione, pochi cazzi, nel senso, se non è il governo italiano, comunque questa cosa qui succede ormai un sacco di tempo. Siccome il concetto dell'aiutare gli altri, in particolare gli ultimi, sta proprio passando dalla testa di tutti, allora la tenerezza come gesto di resistenza, cioè bisogna essere teneri gli uni con gli altri, quindi l'affetto con la giusta misura come forma di gratitudine verso gli altri. Io mi sto rendendo conto che sono molto gentile e affettuoso verso tutti in quest'ultimo periodo, proprio perché mi piace esibirlo e mi piace molto esprimerlo. Ho l'impressione di mettere a disagio un sacco di gente, o almeno quantomeno di essere percepito come esagerato. Però, se devo dire la verità, non me ne frega un cazzo, perché se c'è una cosa che mi dà gioia, oltre a tutte quelle che mi stanno dando gioia in questo periodo, che non sono poche, se c'è una cosa che cazzo mi dà veramente gioia dei miei 40 anni, è il fatto che finalmente io posso dire alle persone ti voglio bene, posso abbracciarle, posso toccargli la spalla, posso stringerle, posso dirgli una cosa per incoraggiarle, dargli calore, cioè senza vergogna. Cioè, pensi che io sia uno sfigato perché sono gentile o dolce o disponibile? Cazzi tuoi. Ecco, questo è un po' il mio pensiero attuale, che poi, appunto, essendo io un po' grezzo, nel senso non mi esprimo benissimo, o almeno nel senso non riesco veramente a essere tenero, perché ho una scorza un po' duretta, però è così, cioè voglio volerti bene, caro ascoltatore di Radio Antidoto, sì, proprio tu, non perché tu sia l'ultimo, che insomma sti cazzi, non è per quello, ma perché voler, cioè essere affettuosi, essere teneri, potrebbe essere la cosa che ci salverà. Almeno qualcuno, non tutti. Io spero tutti, ma siccome è passata di moda, e non so se lo sia mai stato in realtà, io penso che bisogna essere teneri. Ora, sono 55 minuti di puntata. Io voglio mettere sta traccia, ma anche solo per vedere se è quella giusta. E ne avrei ancora da metterne in realtà. Metto questa e poi ne metto un'altra che mi ha consigliato il mio carissimo amico Paolo, che mi dice che non c'entra nulla con la tenerezza, ma neanche il pezzo che sto per mettere c'entra nulla con la tenerezza, è tratto da Death Note, però volevo mettere una cazzo di canzone di anime giapponese bella tamarra, spero di averci preso, e comunque vabbè, sforerò un po', tanto se mi state ascoltando siete entusiasti di ascoltarmi e quindi lo faccio lo stesso. Sì, è lei. Eccotela la mia tenerezza. Quel testo dice Iva Zanik. Yeah. fa ridere, perché la musica è quello che devo dire, non si appiccica. Comunque a me sto pezzo piace veramente un sacco. Comunque io penso, cioè nel senso, sono convinto che ancora non sono ancora soddisfatto del mio modo di esprimere la tenerezza. E ci voglio lavorare ancora, perché Madonna, sto giro mi fa impazzire. Questo finale è qualcosa di pazzesco. No, non posso, non... Chiedo scusa a Paolo, ma la devo chiudere così. Cioè, con questa canzone qua ci stava troppo bene. Comunque, c'è della tenerezza da esprimere, ragazzi. Vi invito nel 2024 a sperimentare, scoprire come si fa a modo vostro, sempre meglio. Con sempre meno disinteresse, sempre più per amore verso gli altri, sapendosi conoscere, conoscere i propri confini, conoscere le proprie fragilità, e usare quelle che comunque sono un'energia pura, molto, molto genuina, molto onesta alla fine. Ci incontriamo e ci amiamo come persone, non come amanti, ci amiamo nel senso che ci vogliamo bene perché siamo feriti, non perché stiamo bene. E bisogna veramente diffidare dalle persone che stanno bene, perché alla fine sono le ferite quelle che ti... ti danno quella capacità poi di ritrovare te stesso negli occhi dell'altro. Ecco, ho detto pure questa. Non lo so. Questo è il 2024, ragazzi. Vogliamoci bene, diciamocelo, abbracciamoci, sorridiamoci, diamoci dei buffetti. Insomma, stiamoci vicino, perché abbiamo bisogno di starci vicino. Radio Antidoto, ti saluto, grazie per essere rimasto in ascolto, e io mi sa che mi riascolto sta canzone. Sì, me la metto in cuffia e me la riascolto, è proprio una bomba, porca miseria. 2 gennaio 2024, 20.05, questa era la puntata del nuovo anno di Rigonia. Un abbraccio forte e buonanotte.